oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata da Katia Caramelli. Sarà a Filadelfia, la città degli Stati Uniti, che ospiterà il prossimo incontro mondiale delle famiglie nel 2015. Tra le eredità del settimo incontro mondiale, che ha portato invece a Milano fedeli da oltre 150 paesi, una casa di accoglienza che nascerà a Nazareth. A gestire il progetto, il movimento del rinnovamento nello spirito. Salvatore Martinez è il presidente. Un sogno di Benedetto XVI, ma ancor prima di Giovanni Paolo II, che trova adesso compimento. Era il secondo incontro mondiale delle famiglie nel 1997 a Rio de Janeiro, quando Giovanni Paolo II annunciò il bisogno di un centro internazionale per le famiglie proprio a Nazareth. Nel 2009 Benedetto XVI, proprio a Nazareth, nel maggio, 14 maggio del 2009, in visita pastorale, ribadisce l'importanza di questo progetto e sostanzialmente chiede che giunga ad esecuzione. Il rinnovamento nello spirito ha accolto l'invito della Santa Sede e attraverso una fondazione promossa dal Pontificio Consiglio per la Famiglia realizzeremo questo centro. In occasione di questo settimo incontro di Milano è stato presentato proprio come un'opera segno, una sorta di eredità spirituale, ma direi anche pastorale, di questo importante convegno, e siamo lieti che il Santo Padre abbia potuto apprendere che questa opera da lui desiderata finalmente giungerà a compimento, e così ci sarà una casa del Papa e una dimora spirituale per le famiglie di tutto il mondo, proprio a Nazareth, dove tutto ha avuto inizio. Beh, intanto desideriamo che sia una casa delle famiglie, ancor prima che un centro a favore della famiglia, il che significa che il centro potrà ospitare fino a 100 famiglie, ci saranno delle camere nelle strutture alberghiere pensate proprio per la ospitalità di famiglie. Sarà poi un osservatorio internazionale di tutto il bello, il buono, il vero, il giusto che la famiglia ordinariamente racconta. Di tante buone notizie non sempre riusciamo a dare contezza, quindi vogliamo che tutti i binomi possibili, famiglia welfare, famiglia educazione, famiglia economia sociale, famiglia e tempo libero, siano coniugati e rappresentati in una sorta di grande vetrina internazionale che permetterà alle università cattoliche, alle conferenze episcopali, movimenti, associazioni di raccontarsi e di raccontare la soggettività ecclesiale e sociale della famiglia. Sarà anche un centro di spiritualità, un centro di formazione pastorale e direi anche, ed è un'altra delle indicazioni che Benedetto XVI ha voluto sottolineare, una opera a difesa della famiglia. In un contesto sociale e politico estremamente difficile, il tema della famiglia è unitivo per le tre religioni monoteiste e per noi cristiani sarà l'occasione di sostenere, mantenere, aiutare le famiglie che spesso sono costrette ad esodi forzati e che conoscono molte forme di povertà. Ora c'è Don Willy Volonté, a domenica prossima. Nel 1969 uscì un film drammatico dal titolo Dove osano le aquile. Un comando alleato doveva smascherare agenti infiltrati dello spionaggio tedesco. L'impresa era pericolosa perché mirava a difendere gli alti ideali di libertà contro il regime nazista. Ora invece non sono più le aquile ad osare per grandi ideali. In Vaticano osano solamente i corvi, i quali notoriamente sono qualificabili come spazzini di carcasse. Gente inquietante, come sono anche certuni giornalisti che si prestano ad aiutare i corvi in nome del dovere di informazione, che sovente è solamente un paravento ideologico. Ma qual è la lezione di Papa Benedetto e sta dando in questo deplorevole frangente? Forse è calata la sua popolarità? Il cardinale Scola, arcivescovo di Milano, si prese la libertà di dire a conclusione dell'incontro mondiale delle famiglie: i giornalisti se ne facciano una ragione, la gente vuole bene al Papa. Questo è il sentire comune dentro la Chiesa, anche se la Chiesa è sempre in uno stato di riforma e di purificazione. Il cardinale Sgrecce, eminente studioso di problemi bioetici, affermò recentemente: «In fondo in ogni famiglia può capitare che un figlio venga scoperto dai genitori mentre trasgredisce gravemente, ciò arreca loro un grande dispiacere e nel contempo fa soffrire l'intera famiglia. Però non diminuisce la speranza di uscirne. Ci si potrebbe domandare, forse che la Chiesa lungo i secoli non ne ha viste di peggio? Certamente, ma non è questa una grande consolazione. Accadeva anche di peggio, ma non sarebbe dovuto accadere. La verità vorrebbe che i mass media si riequilibrino nelle loro cronache. Evidentemente anche il bene della Chiesa deve essere quotidianamente presentato anche come aiuto sociale. Altrimenti come fanno a vedere il bene che, come scriveva Romano Guardini, è l'unico ad esistere, poiché il male è soltanto carenza di essere».